Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1824. L'anno dei cambi al vertice, muoiono i regnanti toscani, in Francia assale sul trono Carlo X. Roma, verso il giubileo del 25, tra le tensioni, repressione e leggi antiebraiche nello Stato Pontificio. Russia, drammatica inondazione a San Pietroburgo, l'acqua sale di 4 metri, incertezza sulle vittime. Arriva dalla Francia un metodo per far leggere i ciechi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. È stato un anno che ha visto la scomparsa di molte teste coronate. Oltre all'ex re di Sardegna, Vittorio Emanuele I, che aveva però già abdicato in favore di Carlo Felice, se ne sono andati Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, alla quale succede il figlio Carlo Ludovico, e Ferdinando III di Lorena, granduca di Toscana, che sarà sostituito da Leopoldo. Ma il cambio al vertice più importante di questo 1824 è senza dubbio quello avvenuto sul trono di Francia, dove la morte di Luigi XVIII è succeduto il fratello Carlo X, viene considerato un ultra-reazionario e tra i suoi primi atti c'è stato il ripristino di un rito medioevale, l'imposizione delle mani del re per la cura della scrofolosi. E ora ci spostiamo a Roma che, come vi dicevamo nei titoli, si prepara al giubileo in un clima di tensione. Se volevano la piena restaurazione, gli zelanti che in conclave hanno eletto Annibale Sarmattei della Genga sono accontentati, ma i livelli che Leone XII sta raggiungendo, secondo alcuni analisti politici, rischiano di far male allo stesso Stato Pontificio. Dopo le leggi sulla moralità pubblica, ora tocca alle leggi antiebraiche. I ghetti sono stati ampliati, provvisti di mura e porte da sbarrare, a 300 ebrei romani è stato imposto di frequentare sermoni cattolici ogni settimana. Ai cittadini di religione israelite è fatto divieto di possedere beni immobili e sono proibite le transazioni finanziarie con i cristiani. Il risultato è stato un esodo dei più ricchi tra gli israeliti, che sta creando non pochi problemi alle già esangui casse pontificie. Ma non è tutto. Nel sud dello Stato il cardinale Palotta ha decretato l'esecuzione sommaria dei briganti a 24 ore dal loro arresto. È stato costretto a dimettersi dopo un mese e i briganti hanno fatto celebrare messe di ringraziamento. In questo clima ci si avvicina al giubileo dell'anno prossimo, il primo in 50 anni, visto che nel 1800 Pio VII era stato appena eletto, peraltro a Venezia. A Roma sono certi che sarà un successo, eppure al passaggio di Leone XII per le strade della città eterna non si odono le consuete acclamazioni per il Papa Re, ma un ostinato silenzio. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Una drammatica inondazione ha colpito la città russa di San Pietroburgo il 7 novembre di questo 1824. Il numero di vittime è incerto, si oscilla tra le centinaia e le migliaia. L'inverno è arrivato molto presto e blocchi di ghiaccio sono scesi lungo il corso del fiume, neva ostruendone il corso. Quando la temperatura è salita, il ghiaccio si è rotto e l'acqua è scesa velocissima e freddissima, 4 metri sopra il livello normale. Chi non è morto annegato è morto per il gelo. Si chiama Louis Braille, cieco dalla giovanissima età a causa di un incidente nell'officina del padre, e ha inventato un metodo che permette ai non vedenti di leggere. A differenza del precedente, che consisteva nel leggere attraverso il tatto i caratteri della stampa in nero, ma messi in risalto da un filo di rame posto sull'altro lato del foglio, il metodo Braille si basa su 12 punti e permette anche di scrivere. È tutto dal nostro sito, potete accedere al nostro foglio quotidiano, al nostro blog, alla pagina Facebook, lasciateci un commento, dal complimento alla critica feroce è tutto ben accetto, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.